Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. C'erano poche e sane regole a cui non si poteva sgarrare. Non ci si doveva allontanare troppo dal cortile. Bisognava fare attenzione a non rompere le vetrine di porte e finestre e dopo il pranzo era vietato uscire per disturbare le persone che facevano la pennichella e quella fascia oraria era denominata U Silenzio. Ciao, sono Dino e vivo a Biancavilla. Ho 42 anni, faccio l'area manager per un'azienda farmaceutica e ho una famiglia con due bellissimi bambini. Si parla di giardini d'infanzia oggi, forse perché quando si riesce, se si riesce, a varcare i tornelli di Fort Knox, conosciuto anche come la fortezza da basso, dove c'è Pitti Uomo in questi giorni a Firenze, sembra di stare in un grande giardino d'infanzia, dove un po' tutto è possibile, per cui vedi delle persone con delle giacche a fiori e nessuno che gli dice niente, vedi delle persone in giro con un piatto con delle scarpe sopra e nessuno gli dice niente, vedi delle persone in giro a piedi nudi che ti offrono dei fiori e nessuno gli dice niente, è proprio come stare in un grande giardino pieno di ragazzini che fanno un po' quello che gli pare e nessuno gli dice niente. Sono le 16:09 minuti, buongiorno a tutti, questa è Voi Siete Qui in diretta da Pitti Uomo, se non l'avete capito, a Firenze. Siamo nell'angolo appena dentro a sinistra, giusto? Quello è l'ingresso, no? Appena dentro a sinistra c'è lo splendido stand di The Bridge e di fianco l'altrettanto splendido stand di Radio 24 con davanti questo olivo. E io ce l'ho, so che mi è rimasto un po' qui, lo dico anche a Laura Vanossi che è qui di fianco e fa finta di non esserci, come se potesse entrare in qualche modo in diretta. Questo olivo mi lascia un po' basito, perché non capisco come mai. Chi l'ha deciso? L'ha deciso Pitti Uomo, l'ha deciso The Bridge, l'ha deciso qualcuno molto in alto, ma un pochettino anche chi se ne frega, perché questo è il grande giardino d'infanzia in cui tutto è possibile. 349-238-6666 oppure voi siete qui Radio 24 sul profilo Facebook, se siete davanti a un computer, se avete uno smartphone invece in mano abbiamo anche il profilo Twitter che è Voi Siete Qui R24. Ve lo ricordate il vostro giardino d'infanzia? Vi ricordate quel luogo in cui tutto era possibile, che è proprio è una sorta di luogo della mente ormai, che magari lo frequentate ancora perché era il cortile di casa dei vostri genitori e anche se vivete lontani ogni tanto tornate e quindi ce l'avete presente. Quel luogo magari non è più lo stesso, però ha in sé qualcosa di speciale. 349-238-6666. Emanuele scrive: Villaggio Faisec, frazione di Gaverina Terme, Bergamo, da metà giugno a inizio settembre. Marco, il campetto del centro parrocchiale che si chiamava Anspi, ora Circolo Noi. Ora Circolo Noi, è un circolo che si chiama Noi. Partite di calcio e di basket. Tatiana, Roncaglione Viterbo con i nonni paterni che affittavano la casa da giugno a settembre per tutta la famiglia. Nello specifico la località era Punta del Lago. 349-238-6666. Facciamo un passo indietro, estraniamoci da questo splendido giardino d'infanzia che è Pitti Uomo, per fare una comunicazione di servizio, visto che sono arrivati dei messaggi che chiedevano se è ancora possibile iscriversi al live, la risposta è no. Perché purtroppo tutti i posti sono andati esauriti, sono 600 i posti a disposizione e sono ormai esauriti. Non so se esiste un altro termine, però direi che i posti sono ufficialmente finiti. Ci sono delle sedie contate e non si può stare in piedi. Però abbiamo avuto anche oggi la notizia che, l'avevo letta qui sul sito, che potrete ufficialmente seguire in video streaming l'evento, quindi dal sito di Radio 24 vi collegate e se proprio non avete nient'altro da fare, il 27 di giugno, cioè giovedì prossimo, passatevi qualche minuto in compagnia più che mia di alcune delle 10 storie che sono arrivate durante l'arco della stagione e che vi racconteremo in diretta. Un'altra notizia di servizio e poi vi prometto che partiamo, che torniamo in questo luogo magico dove tutto può succedere. Con un po' di ritardo rispetto all'anno scorso, anche quest'anno pubblicheremo un ebook. Che cos'è un ebook? È un libro elettronico, è gratuito, non serve un supporto se non un iPad o un e-reader, quindi scusami, ha ragione Bonini. Quindi serve un supporto, nel senso che non serve un supporto cartaceo, non dovete spendere dei soldi, potete scaricarlo. Da domani sarà online l'ebook con... quante sono? 100? 100? 102. Perché dovete sapere che la scena qui è sempre la solita, siamo in 5. Siamo Bonini, Valerio Rocchetti, Davide Ciocia, Laura Vanossi, è sempre un solito imbecille che parla da solo, perlomeno per quelli che passano di fianco. Invece per quelli che sono all'ascolto fate un O... Eccoci qua, 349-238-6666, si parla del vostro giardino d'infanzia. Quello di Dino era questo qui. Era l'anno 1981, il 15 di agosto, e io avevo solo 10 anni. Ricordo che era una calda estate siciliana. Proprio in quel giorno persi il mio nonno paterno, che si spense a causa di una malattia. Quella per me fu la prima esperienza di elaborazione della morte. Presi coscienza che anche le persone più care potevano all'improvviso venire a mancare per sempre. Ricordo che fui subito colto da una sensazione di rabbia e al tempo stesso di impotenza, perché vedevo la sofferenza dei miei cari e avrei voluto poter fare un miracolo per sistemare quella situazione. E invece fu proprio quella situazione che mi lasciò in cuore un ricordo indelebile. Io ero il nipote più grande e, considerato che la nonna rimaneva da sola, i miei genitori mi chiesero se mi andava di trasferirmi per qualche giorno da lei per tenerle compagnia e distrarla dal lutto che aveva subito. A 10 anni ero un bambino che voleva esplorare, voleva capire un po' come girava il mondo. Accettai con immenso entusiasmo. Mi sentii subito coinvolto e contento di poter essere utile alla nonna. Finalmente non erano gli altri che si prendevano cura di me, ma ero io che, dal mio punto di vista, ricevevo un incarico di grande responsabilità: tenere i contatti diplomatici con tutti i familiari sullo stato di salute della nonna, prendermi cura di lei, proteggerla da eventuali pericoli. Mi sentivo una specie di supereroe. E quindi tirai la schiena dritta, il petto in fuori, e mi tuffai in quell'avventura. Saltai in sella alla mia bicicletta nuova, una Dino Cross 20, che avevo ricevuto come premio per la promozione, e partii verso il mio nuovo incarico. Nonna Graziella viveva giusto a 500 metri di distanza da casa mia, e nonostante andassi spesso a trovarla, quel giorno fu tutto diverso. Sentii come se si chiudesse un'epoca e se ne aprisse un'altra. Sentii di essere un po' più grande e ricordo anche che il mio punto di vista su ciò che mi circondava era diverso. Ero improvvisamente diventato più attento ai dettagli. Nel breve tragitto che mi portava dalla nonna, catturai radicali cambiamenti dell'ambiente circostante. Ero partito da un quartiere moderno, con condomini di recente costruzione, e mi proiettavo in un quartiere storico, con le case singole costruite con i muri di pietra. Anche la strada, che prima era asfaltata, ora diventava di basolato lavico. C'erano pochissime auto per via delle strade strette, e anche gli odori erano diventati più coinvolgenti, ma la cosa che mi colpì più di tutte fu che in quel posto i bambini giocavano da soli in strada. Arrivato a destinazione, la nonna mi accolse col sorriso e la gioia di sempre. In quel preciso momento mi accorsi subito che la missione per cui ero partito era già fallita. Infatti era sempre lei a prendersi cura di me e non il contrario. Mi abbracciò forte, mi chiese cosa avrei voluto mangiare per cena, e tutto quello che venne dopo me lo porto ancora con orgoglio nel cuore. Ero partito per una missione di solidarietà, e invece le circostanze mi fecero scoprire qualcosa in più di quel lato della vita che ha a che fare con la nostra essenza di libertà. Feci come un salto generazionale all'indietro, passando da uno stile di vita abbastanza vicino a quello dei nostri giorni a un altro di qualche generazione addietro. Era un mondo fantastico. La vita si svolgeva nel cortile Orto Botanico, chiamato così per un piccolo giardino annesso che tutti chiamavano Ugiardineddu. Dopo la colazione saltavo sulla bici e via, libero di scorazzare col clan dei bambini che popolavano quel terreno, in cui mi integrai subito. C'erano poche sane regole a cui non si poteva sgarrare. Non ci si doveva allontanare troppo dal cortile. Durante le partite a calcio bisognava fare attenzione a non rompere le vetrine di porte e finestre, e nelle 2 ore dopo il pranzo era vietato uscire, perché si rischiava di disturbare le persone che facevano la pennichella, e infatti quella fascia oraria era denominata U-Silenzio. E infine, non si dovevano disturbare gli animali che popolavano il cortile. In generale si trattava di qualche gatto o di alcune galline che stavano all'interno del giardino. E poi ricordo una cosa bellissima: mentre noi bambini giocavamo, nessun adulto si mischiava nelle nostre faccende. Bisognava imparare a sbrigarsela da soli. Gli adulti ci guardavano a distanza, senza che noi ce ne accorgessimo, e intervenivano solo se realmente necessario. Erano gli anni Ottanta e ricordo un clima bellissimo e tutto era felice. Tutto quello che si muoveva attorno a quel cortile era circondato di euforia, serenità e tranquillità. Al tramonto si rientrava, ed era solo allora che passavo un po' di tempo con la nonna sul terrazzo. Si respirava l'odore del basilico, della menta e delle mandorle stese al sole per essiccare. Poi, assieme, si guardavano le nuvole in cielo. La nonna ricordava i bei tempi che furono: la guerra, i bombardamenti, gli sfollati e poi gli americani. Tutti i suoi dialoghi avevano sempre un lieto fine, e proprio sul finire lei cominciava a fare i soliti calcoli. Chissà se un giorno riuscirò a vederti sposare. Chissà se un giorno avrò la fortuna di vedere i tuoi figli. Che libro sotto braccia, camicetta a fior blu, vo fa signore. pure nella nanza scuola pure tu. Ti piglia sigaretta quando accatto papà. Ti mette già un rossetto come vire, fa mamma Lazzare. Ma Lazzarella come sì, tu non mi pensi proprio a me. E ridere come fa capire che perdo tempo a piezza a te. Nell'estate del 1985 avevo 10 anni e uno dei primi giorni di agosto mancò mio nonno. A differenza del nonno di Dino, però, lui mancò all'improvviso, da un giorno all'altro, provato da un fuoco di Sant'Antonio che aveva fiaccato un cuore già molto stanco. Noi eravamo al mare all'Isola d'Elba e partimmo subito per tornare a casa. Sull'auto, lungo la strada di ritorno, composi una poesia per ricordare mio nonno e la feci su un blocchetto della pigna, di quelli piccoli, con i quadretti grandi. È strano perché ricordo bene il blocchetto, ma non ricordo nulla della poesia. Tutti erano molto seri, tristi. I miei genitori lasciarono me e mia sorella da amici e raggiunsero mia nonna in montagna, dove mio nonno era mancato. Non si conosce mai il momento in cui si diventa grandi, e non credo sia accaduto in quei giorni, anche se è stata la prima volta che ho visto da vicino la morte e la mancanza. Anzi, in quei giorni capii proprio perché quando una persona muore si dice che è mancata, perché proprio da quel giorno lì inizia a mancarti la sua presenza. Cominci a sentire che quella persona non c'è più e non ci sarà più. Ma quello di cui parla Dino però nel suo racconto è un'altra cosa ancora. Non parla di morte, non parla di crescita, parla di libertà. Parla della sensazione che avevamo quando da ragazzini potevamo fare ciò che ci pareva, o quasi, senza badare alle conseguenze. Forse però quella è una sensazione a posteriori. Forse quella sensazione di libertà, più che averla vissuta, abbiamo avuto l'impressione di averla vissuta. E gli anni che sono trascorsi in mezzo amplificano quella sensazione. È come se l'infanzia e la giovinezza fossero una sorta di periodo da superuomini in cui tutto è possibile, in cui la vita è facile e divertente, in cui il corpo risponde senza ritardi e la mente è in grado di apprendere al doppio e al triplo della velocità. E da lì tutto il tempo rimasto, quello a posteriori, sembra solo un pezzo di vita in cui tutto brama a tornare là, a quel periodo felice e libero. Anyway, don't hide the photos or turn off the lights. I'm quite sure we both see funnier sights. Ciao Matteo, mi chiamo Dino e vivo a Biancavilla, provincia di Catania, un paese situato ai piedi dell'Etna. In molte occasioni, ascoltando Voi siete qui, le vostre storie hanno rievocato fotogrammi, storie ed emozioni rimosse che, tornate alla luce e viste da altre prospettive, mi hanno presentato il conto di quando tali eventi abbiano segnato alcune tappe fondamentali della mia vita. Cordialmente, Dino. Pronto Dino? Ciao Matteo! Buongiorno, come stai? Buongiorno, bene, bene, grazie. Mi viene da parlare un po' siciliano, ma semplicemente perché sono un imbecille, cioè perché ho degli amici siciliani e quando parlo con loro gli dico: come stai? Comunque, vai, tutto a posto, lì. Tutto a posto. Si dice a Sicilia, tutto a posto. Tutto a posto. È un po' modo di dire. Dino, cosa vuol dire che alcune storie ti hanno presentato il conto ascoltando il programma? Perché una delle cose che mi incuriosisce sempre è, ovviamente, è come viene fruito dall'altra parte, no? Cioè, che tipo di effetto hanno le storie. E questa è anche una cosa di cui vorrei parlare, e sicuramente lo faremo giovedì prossimo al live, no? Capire sulla faccia delle persone e sul loro modo di percepire come arrivano le storie che raccontiamo qua. E mi incuriosiva questa cosa. Ho letto un pezzo della tua mail che accompagnava il racconto, no? E tu dici proprio: mi hanno presentato il conto di quanto tali eventi abbiano segnato tappe della mia vita. Cosa intendi dire? Ma sai, io non ho una buona memoria, nel senso che, diciamo, che il tuo programma mi ha aiutato a tirare fuori i cassetti della mente dove erano depositate delle cose che magari non ricordavo. E quindi, diciamo, col senno di poi, a rivedere, a riguardarsi indietro, ti trovi delle situazioni che magari prima non avevi ponderato con la giusta esperienza. Quindi magari ogni storia ha un riferimento a qualche altra storia e quindi che avevo vissuto personalmente, quindi ho fatto delle considerazioni a posteriori su cose che prima non avevo considerato. Dove sei adesso, Dino, esattamente? Adesso sono per strada e mi trovo a Paternò, è un paesino in provincia di Catania. E stai quindi portando... Tu sei un... No, perdonami, non si dice rappresentante farmaceutico. Un informatore. Informatore scientifico, certo. Sì. Ho già avuto modo di essere ripreso più di una volta per la questione, perché voi non vendete ma informate, giusto? Sì, sì, sì. Che è sempre un po' sottile però quella... la soglia, no? Tra essere un commerciale ed essere uno che fa informazione, giusto? Sì, c'è quella sottile linea rossa di confine che non bisogna mai oltrepassare. Ti ascoltano i capi? Ti stanno ascoltando? C'è no, delegato? Non lo so, probabilmente. Comunque io faccio l'area manager. Ok, quindi tu sei libero da questa... Cosa vuol dire? C'ho pure dei capi, pure io ho dei capi. No, i capi certo, però tu non informi più di fatto. Sei il capo di quelli che informano. Non ci sto capendo niente, Dino. Come al solito, quando cercano di spiegarmi i mestieri e le professioni, non ci capisco nulla. Però sostanzialmente tu sei uno che va in giro in automobile, giusto? Questo più o meno. Sì. Ok. E la tua area è quella lì? Catania? La mia area è la Sicilia e la Sardegna. Ah, ok. Quindi fai una settimana qui, una settimana lì? Diciamo che faccio un po' meno tempo in Sardegna perché... gestisco meno uomini, ho soltanto due uomini da gestire in Sardegna, due informatori e 9 in Sicilia. Ci torni ancora ogni tanto in quel luogo, in quel cortile, in quel... com'è che si chiamava? L'orto botanico. Orto botanico, sì. Ma quello ogni tanto ci passo, quello per me nel mio piccolo rappresenta la mia stato della libertà, perché fu il luogo dove per la prima volta percepì questa sensazione di essere un essere libero e poter, diciamo, pensare, decidere, agire facendo riferimento soltanto alle mie risorse. Però ci parlo. Guarda, dovresti farti un giro a Pitti Uomo, anche se se ti occupi di farmaceutica, però qui la sensazione di libertà è abbastanza all'ennesima potenza, direi. Fatti un giro, trova il modo per entrare, perché so che c'è un biglietto, se non sei accreditato. Qua mi fanno dei segni con un 3 davanti, 30 euro. Quindi se non hai niente da fare e vuoi farti un giro in un grande giardino d'infanzia, vieni qui a Pitti Uomo. Quanti figli hai invece? Ne ho due. Uno di 8 anni, che si chiama Mattia, e uno di 5, che si chiama Walter. Che tipo di padre sei? Sei apprensivo? Hai uno slancio di liberalità? Ah, diciamo che sì, sono abbastanza apprensivo, entro certi limiti però. Cioè, fammi capire, li fai andare 10 metri lontano da te o li lasci andare da soli in un luogo dove non li vedi anche? No, non li lascio andare da soli in un luogo dove non li vedo. Ok, ti parla uno che non ha idea di cosa sta dicendo, però leggendo il tuo racconto immaginavo che tu fossi rimasto là, no? Che esiste un luogo in cui comunque si è protetti, anche da bambino. Sì, sono cambiati i tempi, lì eravamo 30 anni fa, oggi è tutto da stare un po' più attenti, ecco. È tutto diverso. Dino, immagino che tu non venga giovedì a live, però immagino che tu abbia la connessione pronta per venire, per guardarci quantomeno. Vi ascolterò sempre. Devi dire di sì. Bravo, ci puoi addirittura vedere, pensa che culo. Dino, grazie ancora e in bocca al lupo per tutto. Ciao, grazie, buona giornata. Matteo, è stato un piacere. Ciao. 349-238-6666. Scusatemi, io vi ascolto qui fuori e se ci riesco vorrei solo ringraziarvi di persona. Sei tu? Ah, finalmente, l'abbiamo visto. Perché c'era questa signora, questa ragazza fuori con un abito lilla che faceva avanti e indietro e diciamo, sicuramente, però non può entrare perché ci sono delle transenne tra noi e lei, ma stai lì che tra un attimo abbiamo finito. Voi siete qui. Ammetto che questa cosa che facciamo da 2 a 3, mi pare, anni a questa parte, che è quello di cercare di dare una storia alle fotografie, delle volte più semplice, delle volte meno, delle volte riesce di più e delle volte di meno, un po' come tutte le cose, un po' come tutte le cose della vita. Ci sono però alcune foto, come questa qua, come la foto di Dino, che trovate sul sito di Radio 24, la nostra pagina, che magari non raccontano una storia, però raccontano quantomeno un modo di vivere, Poi non so come viva Dino la sua vita, però in questa fotografia, che è scattata su una barca a vela di piccole dimensioni, mi sembra, lui è su una magliettina bianca, si vede giusto la magliettina, il viso e gli occhiali da sole, il mare alle sue spalle e il resto, la tuga di questa barchina a vela. Eppure, nonostante tutto, anche se ci sono pochi elementi in questa fotografia, raccontano qualcosa che ha a che fare con la serenità. Bildungsroman, sostantivo maschile tedesco. Romanzo di formazione, genere narrativo imperniato sulle esperienze formative del protagonista, il quale viene maturando progressivamente il proprio carattere e la propria identità morale. Etimo, composto di Bildung, formazione, educazione, e Roman, romanzo. Data 1987. Sì, lo so che sembra non c'entrare nulla con tutto il resto, questo Bildungsroman. Invece ha a che fare col fatto che oggi stiamo parlando. Valerio, scusa, ti devo chiedere di abbassarmi un po' la cuffia, perché so che ti chiedo sempre di alzarla, però adesso effettivamente. Grazie mille, era un po' troppo, rischiavo l'otite perforante, tempo 5 secondi. Dicevo, Bildungsroman, parliamo di romanzo di formazione e scegliamo una parola tedesca. Perché, Tiziano, perché? Perché in Germania nel tedesco c'è un'unica parola per definire romanzo di formazione. Perché raccontiamo, oggi abbiamo raccontato questa storia che ha a che fare col crescere, col diventare grandi, col momento in cui si diventa grandi. E a breve avremo ospite una persona che ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere qualche tempo fa, con cui mi ero fatto una bella chiacchierata riguardo alla formazione. Quindi a breve lo sentiremo in diretta, è un filosofo, si chiama Franco Bolelli. Io intanto sono preoccupatissimo per la nostra ascoltatrice lì fuori, che vedo sudare sempre di più, e lì credo ormai è un'oretta, ma tra poco abbiamo finito, tu rimani lì oltre quelle transenne. E intanto continua la grande bagarre di PT Uomo, che continuerà anche domani e dopo, giusto? La radio sarà qui anche domani e dopo, nello spazio di The Bridge, e col suo bello ulivo davanti, che credo che stiamo postando in questo momento sul profilo Facebook del programma, visto che parliamo sostanzialmente di dettagli della vita delle persone, raccontiamo anche dettagli di questo luogo in cui ci troviamo. 349-238-6666, il luogo della mia infanzia, scrive Francesca, era il terrazzone. Così chiamavamo il cortile sotto casa noi bambini. Da lì non si poteva uscire, ma quante ne abbiamo inventate con gli amici degli altri condomini. La magia è svanita quando abbiamo avuto il permesso di uscire da quel cortile. Eravamo tredicenni. Se penso che i miei figli non avranno mai un luogo magico come questo, mi viene nostalgia. Francesca, per i figli magari creaglielo tu. Capisco però invece la sensazione del permesso di poter uscire. Cioè, quando io tra poco potrò uscire da PT Uomo, mi sentirò un'altra persona. Forse, non lo so, forse sicuramente diversa, non so come, ma sicuramente diversa. 349-238-6666, io avevo voglia di parlare oggi con una persona che lo facesse meglio di me, un pochettino di formazione, un pochettino di gioventù, un pochettino anche di giardino d'infanzia, ma anche e soprattutto di giochi, e ho chiesto di farlo insieme a me a Franco Bolelli. Pronto Franco, buongiorno. Buongiorno Matteo, come stai? Io sto benone, tu? Benissimo, grazie. Bravo. Dove sei? A casa? Sei a Milano? Sì. Benissimo. Dicevo prima, abbiamo avuto modo già di parlarne in un'altra occasione davanti a una telecamera, no? Okay. Di quando si diventa grandi. Franco, però tu mi hai dato una definizione magnifica. Tu mi hai detto, quando ti ho chiesto quando si diventa grandi, tu mi hai detto non bisogna diventare grandi. No, non bisogna diventare grandi. Bisogna continuare a diventare grandi, bisogna non smettere mai di diventare grandi, bisogna continuare a essere piccoli e non smettere mai di essere piccoli. Credo a un grande mescolamento dell'età, credo al fatto che soprattutto nella condizione di oggi, nella quale tutti i parametri sono cambiati, noi non possiamo mai smettere di crescere. Non c'è un punto, secondo me, nel quale cresciamo e un punto nel quale smettiamo di crescere, perché smettere di crescere significa biologicamente appassire e poi morire. Di conseguenza noi non possiamo smettere di crescere. E oggi quindi è vietato, perché abbiamo una quantità tale di informazioni, di materiale a disposizione, come gli esseri umani non hanno mai avuto prima nella loro vita, e di conseguenza è impossibile oggi smettere di crescere in qualche modo. Ma quindi Franco, scusami, quella famosa linea d'ombra di cui parlano, tra l'altro, di cui parlano i grandi romanzi di formazione, no? Cioè che esiste una linea, una demarcazione tra come si era prima e come si è dopo. Non esiste più? Esiste ancora o ce ne sono diverse? No, io credo che esista, però non può rimanere l'unico punto. Io ad esempio, nonostante che non mi ricordi niente del passato, mi ricordo la mia perfettamente. Mi ricordo a 16 anni quando ho scoperto più o meno nello stesso periodo Jimi Hendrix, che mi ha cambiato la vita, E ho scoperto una frase di un filosofo finito facendo un cavallo, ma che da allora è il mio punto di riferimento, che diceva di non poter credere a nulla che non sia, a nessun pensiero che non sia una festa anche per i muscoli. Lì per me è stato il punto fondamentale, il vero punto di svolta. Però poi quei punti, insieme a tanti altri, ho dovuto reinventarli ogni volta, per cui c'è un punto di svolta, ma poi li devi avere costantemente, li devi reinventare, devi trovare nuovi punti di svolta e di crescita e di formazione nuova. Però parliamo con uno, scusami Franco, che a 16 anni leggeva Nietzsche, insomma, per capirci, quindi non è così, sì, non no, è così comune. Certamente ci capivo poco, però quella frase okay. Mi impressionò ovviamente in maniera straordinaria. Ma in generale io credo che oggi noi siamo nelle condizioni di non dover mai smettere di crescere, di trovare sempre un elemento di gioco, di innocenza, di capacità di sperimentare, di esplorare qualcosa, altrimenti siamo immobilizzati e appunto deperiamo assolutamente. E invece Franco, scusami, i luoghi dell'infanzia, perché oggi parlavamo di questo e, sì. E appunto da due giorni mi sembra un pochettino di esserci immerso in un luogo dell'infanzia, perlomeno in un luogo in cui tutto è concesso. La prima cosa è, esistono ancora, se hai modo di frequentarli o se hai avuto modo di sapere se esistono, e come viene scelto, come viene eletto un luogo dell'infanzia? Ho modo di frequentarli in particolare in questi giorni perché da 8 giorni ho qui e sono completamente colonizzato da lei, la piccola bimba di mio figlio che ha quasi 4 anni, okay. Della quale sono patologicamente pazzo, per cui dipendo completamente da lei in ogni gesto, in ogni momento della giornata. Ok, e quindi però insomma, sei abbastanza immerso in questa cosa. Ah, totalmente. Però è uno strano miscuglio, nel senso che ci sono i luoghi dell'infanzia, quelli assolutamente, che ci devono essere nella maniera più assoluta, però a me sembra che i bimbi piccoli sempre di più tendano anche loro ad essere superiori alla loro età, nello stesso tempo mentre hanno la loro età. Io vedo Isabella appunto che è di Los Angeles, per cui adesso è qua per un mese e mezzo, io vado là peraltro spesso, sì. E si mescolano i luoghi, nel senso che lei stessa vuole avere luoghi che non sono soltanto dell'infanzia, ma che la mescolano con altre situazioni. Ma ad esempio, credo... scusami, sì. Già che ci siamo, qual è il luogo dell'infanzia di una bambina che sta a Los Angeles? Luogo di infanzia di una bambina che sta a Los Angeles sono tanti, ma ad esempio è la sua casa, il suo giardino, perché ne ha uno grande, enorme, eccetera, dove gioca, dove le piace nello stesso tempo piantare i fiori, anche se non è capace. La scuola ovviamente, l'asilo al quale sta andando, ma sai poi ad esempio la spiaggia, e la spiaggia è il luogo dell'infanzia, ma anche il luogo a dei surfer, anche il luogo di situazioni, di esperienze assolutamente di gente molto più cresciuta, per cui credo che gli uomini si mescolino da questo punto di vista. Franco, e poi ti saluto, qual è, tu hai, scusami se te lo chiedo, ma gli uomini si può chiedere, tu hai una 50 d'anni, giusto? No, ne ho un po' di più, uno 62. Ok, nel 62. Tu hai ancora un luogo dell'infanzia? Hai un luogo dell'infanzia dei tuoi 62 anni? Ne ho diversi, nel senso, ne ho uno dell'infanzia, proprio dell'infanzia, no, di poco più, diciamo quasi dell'adolescenza, nel senso che per un strano gioco della vita sono tornato a abitare praticamente a pochi metri dal posto dove sono nato. Dunque mi sto scoprendo, ad esempio, a una piccola via che qui c'è dietro casa in Corso Italia a Milano, nella quale io giocavo a pallone per strada, cosa che oggi è completamente impossibile fare. Io mi ricordo a 7-8 anni quando si giocava a pallone per strada ed è una grande esperienza formativa, pieno centro a Milano, intendiamoci. Però invece adesso oggi... quando cerchi un luogo tuo di 62enne o di uomo cresciuto, dove vai? È a casa, io ho una specie di grande, cioè per me è proprio la casa, è un attaccamento ai posti, al mio luogo, perché ho bisogno di stare a casa, ed è il mio luogo nel quale però veramente trovo la mia dimensione, quella del gioco, quella della capacità di avere un'esperienza di sperimentazione su me stesso. Franco, e poi ti devo davvero salutare, dimmi una cosa che non si deve fare per evitare di crescere, poi ti saluto. Una cosa che non si deve fare, sì. Appunto dare le cose per scontate, pensare che non hai margini di miglioramento, bisogna sempre cercare i propri margini di miglioramento, lavorare sui propri margini di miglioramento a qualunque età nella maniera più assoluta. Franco, ti aspetto giovedì prossimo alle 21 alla sede di Radio 24 per il live finale del programma. Meraviglioso, ti ringrazio molto. Buona giornata, grazie ancora Franco Bollelli. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Abbiamo finalmente finito perché non ce la facevo più, devo andare a salutare la nostra ascoltatrice lì, portatele dell'acqua per piacere. Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile il programma anche da qui, da Pitti Uomo. La storia di oggi era la storia di Dino e anche lui è un punto rosso sulla mappa. Sono Giuliano, vivo a Milano, la storia di domani è la mia e parlo appunto di un milanese a Napoli. Questa è la mia storia e io sono qui.